Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker. Traduzione di Rosanna Pelà. Estratti da The Daily Graph dell'8 agosto, incollati sul diario di Mina Murray. Dal nostro corrispondente, Whitby. Una delle tempeste più violente e subitanee che mai siano state viste qui è scoppiata in questo luogo con conseguenze più uniche che rare. Vari capitani di mare hanno deciso immediatamente di tenere in porto le loro carrette o bagnarole, come chiamano qui i diversi tipi di imbarcazioni, finché la tempesta non fosse passata. Nel corso della sera il vento è calato del tutto e a mezzanotte la calma era mortale. Il caldo afoso e si avvertiva quell'energia incombente che all'avvicinarsi di un temporale influisce sulle persone di natura sensibile. In mare c'erano poche luci perché anche i vapori costieri, che di solito stanno così attaccati alla riva, si tenevano bene al largo e i pescherecci in vista erano pochissimi. Una sola nave si faceva notare ed era una goletta straniera con le vele spiegate che sembrava diretta verso ovest. La sconsideratezza o l'ignoranza dei suoi ufficiali ha suscitato una quantità di commenti finché la nave è stata in vista. E sono stati fatti parecchi tentativi per segnalare la necessità di ridurre la velatura a causa del pericolo. Prima del calare della notte si sono viste le sue vele sbattere flosce, mentre la nave rollava dolcemente sulle onde che cominciavano a gonfiarsi. Indolente come una nave dipinta su un oceano dipinto. Poco prima delle 10 di sera l'immobilità dell'aria è diventata davvero opprimente e il silenzio era così profondo che il ballato di una pecora nel retroterra o l'abbaiare di un cane in città si udivano distintamente. E la banda sulla banchina con le sue allegre arie francesi era come una nota discordante nella solenne armonia del silenzio della natura. Poco dopo la mezzanotte si è sentito venire dal mare uno strano suono, mentre l'aria su in alto portava un bizzarro vuoto rimbombo. Poi è scoppiata la tempesta, senza preavviso. Con una rapidità che sul momento sembrava incredibile e di cui anche in seguito è impossibile rendersi conto, l'intero aspetto della natura è stato improvvisamente sconvolto. Le onde si alzavano con furia crescente e ognuna superava l'altra. Così il mare, che fino a pochi istanti prima appariva di vetro, si è trasformato in un attimo in un mostro ruggente e divoratore. Poco tempo dopo, il faro ha messo in luce a una certa distanza una goletta con le vele issate, la stessa a quanto sembrava che era stata avvistata in precedenza. Il vento intanto era girato a est e gli spettatori, dall'alto della rupe, hanno avuto un brivido rendendosi conto del tremendo pericolo in cui si trovava la nave. Tra essa e il porto c'era la grande, piatta scogliera contro la quale tante robuste navi sono andate a incagliarsi e con il vento che soffiava in quella direzione sarebbe stato impossibile che la nave entrasse in porto. Si avvicinava ormai il momento dell'alta marea, ma le onde erano così enormi che attraverso i loro solchi si intravedevano quasi i bassi fondali e la goletta a vele spiegate filava velocissima, tanto che, per usare l'espressione di un vecchio lupo di mare, doveva per forza arrivare in qualche parte, non fosse che all'inferno. È sopraggiunto poi un altro banco di nebbia marina, più esteso di tutti i precedenti, una massa di umida caligine che pareva avvolgere tutte le cose in un manto grigio e lasciava a disposizione degli uomini il solo organo dell'udito, perché il fragore della tempesta, lo scoppio dei tuoni e il rombo delle immani ondate arrivavano attraverso quell'umido velo di insensibilità, ancora più potente di prima. I raggi del faro erano tenuti fissi sull'imboccatura del porto, dalla parte opposta al molo est dove si prevedeva l'urto, e gli uomini aspettavano, con il fiato sospeso. All'improvviso il vento è girato a nord-est e le raffiche hanno dissolto la nebbia marina. Allora, mirabile dictu, La bizzarra goletta, con tutte le vele spiegate, balzando di onda in onda a una velocità precipitosa, è passata tra i moli e ha raggiunto la sicurezza del porto. La luce del faro l'ha seguita e un brivido è corso tra gli spettatori alla vista di un cadavere che, legato al timone, la testa ciondolante, oscillava orribilmente avanti e indietro a ogni movimento della nave. Sul ponte non si vedeva nessun'altra forma umana. Tutti sono stati presi da un grande sgomento quando si sono resi conto che la nave, come per miracolo, era giunta in porto, guidata soltanto dalla mano di un morto. Non di meno tutto si è svolto in un tempo assai più breve di quello necessario per scrivere queste righe. Senza fermarsi, la goletta ha attraversato precipitosamente il porto per andare a incastrarsi contro quel mucchio di sabbia e di ghiaia accumulato da tante maree e tante tempeste nell'angolo sud-orientale del molo, che si protende sotto l'East Cliff, qui chiamato molo Tate Hill. Naturalmente il cozzo è stato violento quando la nave è finita sul mucchio di sabbia. Tutti i pennoni, le sartie e gli stralli si sono spaccati mentre gli ingombri di coperta crollavano rumorosamente. Ma il fatto più strano è stato questo. Proprio nel momento in cui la nave toccava terra, un enorme cane, come se fosse stato espulso dal cozzo, è balzato da sotto coperta sul ponte, è corso a prua ed è saltato sulla sabbia, puntando diritto verso lo scosceso di Rupo, dove il cimitero sta sospeso a picco sopra il sentiero che porta al molo est, in posizione così erta che alcune delle pietre tombali piatte, chiamate nel gergo di Whitby lastroni di transito, sporgono letteralmente in fuori, nei punti in cui il sostegno della scogliera ha ceduto, è scomparso nell'oscurità, che sembrava più fitta per contrasto con la luce del faro. Grazie alla cortesia del comandante della capitaneria di porto, io, in qualità di giornalista, sono stato autorizzato a portarmi sul ponte. E sono stato così uno dei pochi a vedere il marinaio morto ancora legato al timone. Non c'è da meravigliarsi che la guardia costiera fosse rimasta sbigottita o addirittura sgomenta, perché non capita spesso di trovarsi di fronte a un simile spettacolo. L'uomo aveva i polsi legati uno sopra l'altro a un raggio della ruota. Tra la mano vicina al legno e il legno stesso c'era un crocifisso, e il rosario a cui era appeso girava intorno ai due polsi e alla ruota, il tutto tenuto unito dalle corde che legavano l'uomo. Può darsi che il povero diavolo fosse stato seduto da principio, ma lo scuotimento delle vele agendo sul timone aveva sbattuto il suo corpo avanti e indietro, tanto che le corde con le quali era legato gli avevano segato la carne fino all'osso. È stato fatto un meticoloso sopralluogo e un medico, il dottor J. M. Caffin, East Elliot Place numero 33, giunto sul posto subito dopo di me, ha dichiarato, dopo un esame del cadavere, che l'uomo doveva essere morto da circa 2 giorni. In una tasca c'era una bottiglia, accuratamente tappata, che conteneva soltanto un piccolo rotolo di carta, risultato poi un appendice del giornale di bordo. La guardia costiera ha detto che l'uomo doveva essersi legato da solo, stringendo i nodi con i denti. Whitby, 9 agosto. Il seguito dello strano arrivo del relitto in piena tempesta la notte scorsa è quasi più sbalorditivo del fatto in se stesso. La goletta risulta russa, di Varna, e il suo nome è Demeter. Quasi interamente zavorrata di sabbia argentifera, trasporta soltanto un piccolo carico costituito da alcune grandi casse di legno piene di terra. Tale carico è stato consegnato a un procuratore legale di Whitby, il signor Billington, il quale è salito a bordo questa mattina e ha preso formale possesso delle merci a lui affidate. Anche il console russo, agendo per conto del noleggiatore, ha preso formale possesso della nave e ha pagato tutte le tasse doganali, eccetera. Oggi qui non si parla che di questa strana coincidenza. I funzionari della Camera di Commercio locale sono stati molto esigenti nell'assicurarsi che tutte le operazioni venissero eseguite in conformità alle norme vigenti. Poiché la faccenda è destinata a fare sensazione, Evidentemente essi vogliono escludere ogni possibilità di future contestazioni. Il cane che è balzato a terra quando la nave si è incagliata ha suscitato un grandissimo interesse e non pochi membri della Società per la protezione degli animali, che a Whitby è assai autorevole, hanno cercato di soccorrerlo. Ma con grande delusione generale del cane non è stata trovata traccia. Sembra che sia scomparso dalla città. È possibile che sia spaventato, sia fuggito nella brughiera e vi stia tuttora nascosto per la paura. Taluni si preoccupano di questa eventualità per timore che il cane diventi in seguito pericoloso, essendo evidentemente una bestia molto selvatica. Questa mattina presto un grosso cane, un mastino bastardo appartenente a un mercante di carbone che abita nelle vicinanze del molo Tate Hill, è stato trovato morto sulla carreggiata di fronte alla corte del suo padrone. Aveva lottato e si era certo trovato davanti a un feroce avversario perché aveva la gola squarciata e il ventre aperto da uno spaventoso artiglio. Libro di bordo del Demeter, da Varna a Whitby. Capitano cose così strane che annoterò accuratamente da ora fino allo sbarco. 16 luglio. Alla mattina Nostromo riferisce che uno degli uomini, Petrovski, manca. Non se lo spiega. La notte scorsa, alle 8, aveva montato la guardia a babordo. Sostituito da Abramov, non era però andato in cucetta. Uomini più che mai depressi hanno detto tutti che si aspettavano una cosa del genere, ma senza aggiungere altro, tranne che a bordo c'era qualcosa di strano. Nostromo sta perdendo la pazienza con loro. Teme qualche prossimo disordine. 17 luglio. Ieri uno degli uomini, Holgaren, è venuto nella mia cabina a confidarmi, spaventatissimo, che credeva ci fosse uno strano individuo a bordo. Ha raccontato che mentre era di guardia al riparo dietro la tuga, perché pioveva forte, ha visto un uomo alto e magro che non assomigliava a nessuno dell'equipaggio salire dal corridoio delle cabine, procedere sul ponte verso prua e scomparire. Lo ha seguito con prudenza, ma arrivato a prua non ha trovato nessuno. I boccaporti erano tutti chiusi. Era in uno stato di panico e di superstizioso terrore, e temo che il panico si diffonda. Per calmarli, oggi farò perquisire la nave da cima a fondo. Più tardi, nella giornata di ieri, ho radunato l'intera ciurma per dire agli uomini che, considerato il loro sospetto di una presenza estranea a bordo, avremmo fatto ricerche da poppa a prua. Secondo, irritato, ha detto che era una pazzia e che cedere a un'idea così sciocca avrebbe demoralizzato gli uomini. Ha detto che si impegnava a tenerli lontani dai guai a manganellate. Gli ho affidato il timone mentre gli altri intraprendevano una meticolosa ricerca, procedendo di pari passo con lanterne. Non un angolo è rimasto inesplorato. Essendoci solo le grandi casse di legno, non c'era un punto recondito in cui un uomo potesse nascondersi. Uomini molto sollevati alla fine della ricerca hanno ripreso allegramente il lavoro. Secondo accigliato, ma non ha detto niente. 22 luglio. Tempo brutto negli ultimi 3 giorni, tutti occupati con le vele, non hanno avuto tempo per la paura. Sembrano essersela dimenticata. Secondo, ripreso suo buon umore e tutti in buoni rapporti. Lodato gli uomini per lavoro durante la tempesta. Passata Gibilterra e usciti dallo stretto. Tutto bene. 29 luglio. Altra tragedia. Turno di guardia singolo questa notte. Uomini troppo stanchi per fare turno doppio. Arrivato sul ponte alla mattina, guardia non ha trovato nessuno, escluso timoniere. Alle sue grida siamo accorsi tutti. Ricerca meticolosa, senza successo. Ora siamo senza Nostromo, con equipaggio terrorizzato. Secondo e io decidiamo di vigilare sempre armati, d'ora in poi, per ogni evenienza. 2 agosto. Mezzanotte, svegliato da un grido dopo pochi minuti di sonno che sembra venire dall'esterno del mio oblò. Non vedevo niente nella nebbia. Precipitato sul ponte, mi sono imbattuto nel secondo che mi dice: accorso a un grido, non ho trovato uomo di guardia. Un altro scomparso. Signore, aiutaci. Secondo dice che dobbiamo avere superato lo stretto di Dover, perché la nebbia, essendosi momentaneamente alzata, ha intravisto North Foreland, proprio mentre sentiva l'uomo gridare. Se è così, ora siamo nel mare del nord. E Dio solo può guidarci nella nebbia, che sembra spostarsi con noi. Ma sembra che Dio ci abbia abbandonati. 3 agosto. A mezzanotte sono andato a dare il cambio all'uomo al timone. Ma non ho trovato nessuno. Il vento era costante e favorevole, navigavamo senza sterzare. Non osando lasciare il timone, ho chiamato a gran voce il secondo. Dopo pochi istanti è arrivato di corsa sul ponte, svestito. Stravolto, gli occhi fuori dalla testa, ho temuto che gli avesse dato di volta il cervello. Si è avvicinato a me, per bisbigliarmi con voce roca nell'orecchio, come per timore che l'aria lo sentisse. È qui. Lo so adesso. La notte scorsa, durante il turno di guardia, l'ho visto. Sembra un uomo. È alto e magro, di un pallore spettrale. Era a prua e guardava lontano. Gli sono scivolato alle spalle e gli ho vibrato una coltellata, ma il coltello ha attraversato il suo corpo come se fosse aria. Mentre parlava, ha alzato il coltello per agitarlo selvaggiamente e poi ha continuato: ma lui è qui e io lo troverò. È giù, nella stiva. Forse in una di quelle casse. Le schioderò una dopo l'altra per vedere. Voi state al timone. E con uno sguardo di avvertimento e un dito sulle labbra è sceso di sotto. Intanto si era levato un vento variabile. Io non potevo lasciare il timone. L'ho visto tornare sulle punte con una cassetta di attrezzi e una lanterna e poi scendere attraverso il boccaporto di prua. È pazzo. Pazzo furioso, e non serve che io tenti di fermarlo. Non può danneggiare quelle grosse casse. Dalle fatture risulta che contengono argilla e strapazzarle sarebbe la cosa più inutile che si possa fare. Quindi sto qui, a badare al timone e a scrivere queste note. Non mi resta che sperare in Dio e aspettare che la nebbia si diradi. Poi, se riuscirò a dirigermi verso un porto qualsiasi, calerò le vele e mi fermerò a fare segnali di soccorso. È quasi finita, ormai. Proprio quando cominciavo a sperare che il secondo ritornasse sul ponte più calmo, perché lo sentivo martellare nella stiva e il lavoro gli fa bene, dal boccaporto è uscito un improvviso grido di spavento che mi ha fatto gelare il sangue e il secondo è piombato sul ponte come se fosse stato esploso da un cannone. Un pazzo furioso, gli occhi roteanti e la faccia stravolta dal terrore. «Salvatemi, salvatemi!» ha urlato, fissando lo sguardo intorno contro il muro di nebbia. L'orrore si è trasformato in disperazione ed egli ha detto, con voce ferma: «Fareste meglio a venire anche voi, capitano, prima che sia troppo tardi. Lui è là. Adesso conosco il segreto. Il mare mi salverà da lui, non rimane altro.» Prima che potessi aprire bocca o farmi avanti per afferrarlo, è saltato sul parapetto e si è lanciato in mare. Credo di conoscere anch'io il segreto, adesso. È stato questo pazzo a liberarsi degli uomini, uno dopo l'altro. E ora lui stesso li ha seguiti. Che Dio mi aiuti. Come potrò spiegare tutti questi orrori quando giungerò in porto? Se giungerò in porto, ci riuscirò mai? 4 agosto. Ancora nebbia che il sorgere del sole non può trapassare. So che sta sorgendo il sole perché sono un marinaio, ma altro non so. Non ho osato scendere, non ho osato lasciare il timone, così sono rimasto qui per tutta la notte nell'oscurità. L'ho visto. Lui. Dio mi perdoni, ma il secondo ha avuto ragione di gettarsi in mare. È meglio morire da uomo, perché morire da marinaio in acque profonde è cosa che nessuno può contestare. Ma io sono un capitano e non devo abbandonare la mia nave, e tuttavia confonderò questo demonio, un mostro, quando comincerò a sentirmi mancare le forze. Mi legherò le mani alla ruota e con le mani legherò ciò che lui, il mostro, non osa toccare. E così, con venti favorevoli o contrari, salverò la mia anima e il mio onore di capitano. Mi sento sempre più debole e la notte avanza. Se lui riuscisse a guardarmi ancora in faccia, forse non avrei il tempo di agire. Se naufraghiamo, forse qualcuno troverà questa bottiglia e può darsi che chi la troverà capisca, altrimenti... Bene, in ogni caso tutti sapranno che ho tenuto fede al mio impegno. Dio e la Beata Vergine e i Santi aiutino una povera anima ignorante a compiere il suo dovere.